Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Infine è arrivato il vertice di tutti i dolori. È un vertice tanto alto che è avvolto dalle nubi del mistero. I patimenti fisici hanno toccato il loro massimo. Le sofferenze morali hanno raggiunto il loro apice. Un altro tormento doveva costituire il culmine di un dolore così inesprimibile. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? In un certo modo misterioso, lo stesso Verbo incarnato è stato afflitto dal tormento spirituale dell'abbandono, in cui l'anima non ha consolazioni da Dio. E questo tormento è stato tale che colui, del quale gli evangelisti non hanno registrato una sola espressione di dolore, ha emesso quel grido lancinante: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Sì, perché? Perché se era l'innocenza stessa? Abbandono terribile seguito dalla morte e dal turbamento di tutta la natura. Il sole si è oscurato, il cielo ha perso il suo splendore, la terra ha tremato, il velo del tempio si è strappato, la desolazione ha coperto tutto l'universo. Perché? Per redimere l'uomo, per distruggere il peccato, per aprire le porte del cielo. Il vertice della sofferenza è stato il vertice della vittoria. La morte era morta. La terra purificata era come un grande campo ripulito perché su di essa si edificasse la Chiesa. Quindi, tutto questo è successo per salvare. Salvare gli uomini, salvare l'uomo che io sono. La mia salvezza è costata tutto questo prezzo. E io non dovrei risparmiare più nessun sacrificio per garantire una salvezza così preziosa. Gesù, per l'acqua e per il sangue versati dal tuo divino costato, per la piaga del tuo cuore, per i dolori di Maria Santissima, dammi forze per distaccarmi dalle persone, dalle cose che mi possono allontanare da te. Oggi muoiono, inchiodate sulla croce, tutte le amicizie, tutti gli affetti, tutte le ambizioni, tutti i piaceri che mi separavano da te.